Anquo Alessandro Mina e leggerai i giornali come uno che legge i giornali. E che tanti scrivi? 24 mattino. Vabbè, è vero, ma io in cambio do qualcosa, come sapete, questa settimana. È vero, in cambio degli skate, io do, regalo qui biglietti per lo spettacolo Platone che faremo con Leonardo. Grazie, grazie. Tenetevi gli applausi, spero, per domenica 20:45 al Teatro Manzoni di Milano. Torniamo in scena con Leonardo Manera, con tanti comici. Ci sarà anche Mario Giordano, opinionista d'eccezione, e avremo il nostro opinionista Rom. Sapete che abbiamo Ratko, l'opinionista Rom, ci si diverte molto. Allora, ieri hanno vinto, perché abbiamo deciso così, i biglietti Angelo da Grate Brianza, che sui vigili che non vigilano perché sono imboscati titolerebbe "multerei ma non posso", e poi Antonella da Milano, "vigili orbati". Questi sono i titoli che ci sono piaciuti. Oggi vi darò un'altra notizia, tra poco, quella da Mani sul Volante. Voi dovete semplicemente al 349-238-6666 mandarci il vostro titolo ideale sulla notizia. Tra poco ve la do, eh. Siate pronti, che anche oggi diamo due coppie di biglietti, quindi quattro persone le portiamo a teatro domenica sera a Milano. Dai, andiamo! Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. In questo mercoledì 11 gennaio, i titoli, anche in questo caso le due notizie, sono quelle sulle banche, le due notizie da prima pagina. Per il Sole 24 Ore, il piano MPS, pronto il decreto sulle garanzie per la liquidità, il titolo principale. E poi La Verità e Libero continuano coi nomi. La Verità, altro elenco di grandi debitori, le coop che hanno affondato il Monte Paschi, il titolo di prima pagina. E Libero, abbiamo altri nomi, i bidonisti del Monte Paschi tremano. L'altra notizia invece è l'arresto di questi due fratelli che, questa è l'accusa, avrebbero spiato per anni l'Italia che conta. L'archivio segreto delle spie, il titolo di apertura del Corriere della Sera, email rubate a Renzi, Draghi, Monti. Il giudice dice a rischio la sicurezza dello Stato. Per Repubblica così spiavano Draghi e Renzi. La Stampa, il giallo dei fratelli che spiavano l'Italia. Il Messaggero, una rete spiava i segreti di Stato. Per l'Unità, democrazia in difesa dai cyberspioni. E anche il Manifesto, cyberspionaggio sull'Italia che conta. Così il Giorno, il mistero dei cyberspioni. Il Giornale, ecco tutti i nomi di VIP e politici spiati. Capite che c'è questo nuovo giallo abbastanza clamoroso. Andiamo con ordine. Qualche notizia che mi ha colpito, a cominciare da quello che succede, racconta il Messaggero, a Norcia, dove immagino farà molto freddo, dove già c'è il problema del terremoto, dei terremotati. Si aggiunge anche questo. Sentite un po', il sindaco di Norcia ha deciso che, siccome bisogna assegnare le prime 20 unità di legno, ma le richieste sono 89 di terremotati, si procederà oggi pomeriggio con un bel sorteggione. Verrebbe da ironizzare, ma c'è poco da ridere, sorteggione in sala mensa. In realtà sarà un sorteggione di fronte al centro operativo comunale, tra l'altro divenuto inagibile dopo il terremoto, oggi Piazza della Riffa, come scrivono Ilaria Bosi e Michele Milletti sul Messaggero a pagina 13. Ebbene sì, sorteggio tra i terremotati per assegnare le casette. Decisione shock a Norcia. Dopo l'anarchia del terremoto, l'imponderabilità di una riffa per l'assegnazione di una casetta. L'ordinanza è del sindaco Nicola Alemanno. E se molti hanno smesso di credere nella buona sorte il 24 agosto scorso col terremoto, oggi ancora il caso offre il riscatto. I fortunati saranno 20, ma le domande sono tre volte di più. E per gran parte dei richiedenti la casa può attendere. In questa roulette russa della burocrazia, nel pomeriggio verranno estratti a sorte i primi 20 fortunati cui verranno assegnate le soluzioni abitative emergenziali, meglio conosciute come casette di legno. è in questa sorta di lotteria, per carità, mettetevi nei panni di chi ne ha 20 di unità e ci sono 89 richieste. Che fare? Qualcuno dice, beh, si poteva procedere con ordine di richiesta temporale. Altri dicono, ma insomma, è una riffa vergognosa. Il problema c'è. È un po' come la situazione che ancora continua sui giornali di polemica di Nola, dove le polemiche ci sono state per questi malati accolti all'ospedale e curati, stesi per terra, perché non c'erano letti, non c'erano barelle, non c'erano lettighe. Ora, effettivamente, Mario Giordano, poi ce lo racconterà domenica a teatro, oggi scrive in prima pagina della Verità un articolo abbastanza duro nei confronti del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, e il titolo è "La prossima volta De Luca incolperà i malati", e tra un po' diranno che è colpa dei malati. Ma si capisce? Come si sono permessi di farsi curare lì per terra sul pavimento del pronto soccorso, senza peraltro nemmeno avere l'accortezza di morire? Come hanno osato ammalarsi proprio nella lotte tra il 7 e l'8 gennaio? E a Nola, per di più, dove di malati ce ne sono sempre troppi, anche perché nel frattempo sono stati chiusi gli ospedali limitrofi. Aspettiamo con ansia la prossima esternazione del governatore De Luca, uomo di fritture frittate, perché siamo sicuri che potrebbe incolpare chiunque, infermieri, barellieri, autoambulanze, apparecchiature elettriche, i malati appunto. Invece no, De Luca ha chiesto il licenziamento di 3 medici dell'ospedale, li ha fatti sospendere dal servizio. Come si sono permessi di curare i malati? Come si sono permessi di salvare vite umane? In effetti i 2 malati delle famose foto, quelli stesi sul pavimento, sono arrivati al pronto soccorso alle 21 e sono stati dimessi alle 23. L'uomo aveva un infarto, gli è stata praticata la defibrillazione, la donna aveva conati di vomito, è stata stesa per evitare il soffocamento. Era meglio un letto? Certo, ma il letto non c'era. E chi lo doveva procurare? I medici? O chi amministra l'ASL, cioè quella regione alla quale vengono rivolti appelli disperati perché intervenga e fornisca strumenti adeguati? Ah, se De Luca aprisse un'inchiesta seria, davvero come si deve, lo sapete come finirebbe? Che si troverebbe a indagare anche su se stesso. E Mario Giordano, il titolo dell'articolo che continua poi a pagina 9 della Verità, è "Malati per terra, chi va licenziato è De Luca". Beh, effettivamente questa vicenda di Nola, insomma, io dare la colpa a chi si è trovato in una situazione di emergenza proprio non ce la farei in questo caso. A proposito di licenziamenti, guardate, oggi torniamo a parlare con Oscar Giannino tra poco dell'Italia degli imboscati. A Milano un vigile su 6 pare abbia un certificato per cui non può stare per strada, sta nel traffico. A Roma oggi racconta Repubblica, che continua in questa inchiesta sicuramente meritevole di essere letta giorno per giorno, Flaminia Savelli, pagina 18, anche i vigili di Roma nell'Italia dei furbetti. Sappiate che 700 vigili di Roma sono inabili su 5.800, il 12% ha un certificato di inidoneità a stare nel traffico. Per carità, molti di questi, probabilmente tantissimi di questi, hanno dei certificati assolutamente veri, patologie serie per cui non posso stare nel traffico. Però ragazzi, poi un piccolo problema si pone, e io lo dico e lo ribadisco: quando incontrate un vigile verso il quale magari fate un gesto di stizza, un moto di rabbia, sappiate che magari quel vigile deve farsi doppi turni sulle strade perché c'è un imboscato collega suo che invece, con un certificato non proprio pulitissimo, è riuscito a ottenere la inidoneità al servizio sulle strade. Ecco qua anche il Giorno dedica una pagina a questo: il vigile urbano allergico alla divisa non può indossarla e resta in ufficio. Il caso limite a Milano: un Ghisa su 6 fornisce prestazioni ridotte. Ghisa è come vengono chiamati dal vecchio berrettone i vigili urbani a Milano. E alle 2 notizie dalle scuola, dal mondo della scuola. Una bella, eccola qua. Maria Teresa Martinengo racconta sulla stampa, pagina 11, per la verità l'articolo inizia in prima pagina, di questo gruppo di insegnanti di Torino, al quartiere Barriera di Milano, un quartiere diciamo tosto, di quelli che si direbbe così, delle periferie delle città, che hanno deciso che cosa? Di versare ai loro allievi, quelli magari che non hanno i soldi per comprare i libri, il bonus per la valorizzazione del merito che questi stessi professori hanno ottenuto. Si parla in genere di 250 euro, in alcuni casi lordi. I prof premiati regalano... Mi emoziona questa cosa. No, non è vero. Malanni di stagione. I prof premiati regalano i soldi ai ragazzi. La scuola è al verde, il bonus serve a loro. Ecco la scelta dei docenti nella periferia di Torino, così compriamo lampade e libri agli allievi. E questa è una notizia positiva. E poi adesso vi beccate questa. E vi beccate questa, che è la notizia che mi fa pinzore della giornata. La notizia da mani sul volante. Attenzione, perché qui si gioca, qui vi sfido. È su questa notizia che dovete fornirci il vostro titolo ideale per vincere, a nostro insindacabile giudizio, anche oggi, due coppie di biglietti per venirci a vedere domenica al Teatro Manzoni, eh? Scriveteci al 349-238-6666, scriveteci anche da dove siete, perché se siete della zona di Milano capite che vi favoriamo, perché dovete venire domenica a teatro, fisicamente. E la notizia che vi chiedo di commentare è questa: il professore in congedo rientra per un solo giorno a scuola e così fa saltare la supplente. È una vicenda un po' complicata, ma ci potete ragionare. Allora, succede a Padova, in un istituto tecnico, dove il docente di diritto che ha la cattedra si assenta da settembre fino a dicembre per motivi familiari, congedo. E allora l'istituto di Padova prende a suo posto una supplente, fa fatica, la trova, la chiama, questa supplente arriva a inizio dicembre, poi il professore torna per un solo giorno, il 23 dicembre, la scuola è costretta a licenziare la supplente, a dire ci scusi, questo professore che è stato in congedo 4 mesi torna un giorno giusto per chiedere un altro congedo senza tempo per motivi familiari. E allora la preside di questo istituto, Nadia Vidale, scrive questa lettera che viene pubblicata dal Corriere della Sera, pagina 20. Egregio professore, lei ha avuto la sorte fortunata di aver ottenuto recentemente un posto di lavoro statale, insegnante di diritto in una bella e grande scuola. Dal 12 settembre lei era assente e noi ci siamo impegnati con mille difficoltà a trovare un sostituto. No, lei forse non sa che trovare un supplente è difficilissimo, ma nel suo caso ci siamo riusciti. Il 2 dicembre gli studenti erano contenti, i genitori confortati, ma ho dovuto licenziare la supplente il 22 dicembre in obbedienza al suo superiore diritto di occupare quel posto in quanto docente titolare, e finalmente lei il 23 dicembre si è presentato alle classi. Cosa è venuto a fare, professore? Poche ore dopo l'ingresso nella scuola lei ha presentato all'ufficio del personale una nuova richiesta di congedo dal 9 gennaio 2017. Noi non ci siamo persi d'animo. La tenacia è una delle virtù della scuola italiana, bellissima e disgraziata. Abbiamo ricominciato a cercare un nuovo supplente, perché come lei sa bene, non si può richiamare il supplente precedente se il periodo di assenza è stato interrotto dal rientro del titolare. Lei, professore, è stato qui un solo giorno per sparire subito. Gli studenti e i loro genitori vorrebbero dare un senso al danno che hanno subito. Vuol dirlo lei, per favore? Cosa ci è venuto a fare nella nostra scuola un solo giorno, il 23 dicembre? E allora vi chiedo su questo, dai, che titolo fate? Il Corriere fa questo. Il prof in congedo rientra per un giorno, così salta la supplente. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. L'ha detto Agamennone, l'ha confermato Nettuno, Alessandro Milan non lo batte nessuno! Va bene, allora andate a scuola, filate a scuola. A proposito di scuola, stanno arrivando tantissimi titoli, continuate a mandarceli al 349-238-6666 per quel prof che torna un giorno dal congedo per chiedere un altro congedo. E... Ale. e ricordate che domani vi diremo chi ha vinto per il più bel titolo per noi, queste due coppie di biglietti per domenica al Teatro Manzoni. Allora, che dire, questi cyberspioni, è una vicenda incredibile, sono stati arrestati due fratelli, uno dei quali appartenente alla loggia del Grand Oriente della massoneria, si chiamano i fratelli Occhio Nero, capite che ci sono degli elementi anche quasi da commedia all'italiana. In realtà è una vicenda molto seria, come raccontano Ivan Cimarrusti e Marco Ludovico a pagina 4 del Sole 24 Ore, dietro i due arrestati un sistema più ampio. Cosa avrebbero fatto? Questo secondo l'accusa, avrebbero fatto un dossieraggio dal 2012 spiando mail e account di personalità molto importanti in Italia. Per dire qualche nome, Renzi, Draghi quando era governatore della Banca Italia, l'ex premier Monti, gli ex ministri dell'economia Saccomanni e Grilli, l'ex ragioniere dello Stato Canzio, l'ex capo di gabinetto del Tesoro Vincenzo Fortunato, il generale Capolupo, l'ex comandante della Guardia di Finanza, il generale Poletti, finanziere e vice direttore dei servizi segreti esteri, e ancora i funzionari dell'interno, domini dell'Istat, politici come Caldoro, l'ex portavoce di Di Pietro, Gramazio, Barbaro, D'Ascola, l'ex ambasciatore in Messico Spinelli, Capezzone, La Russa. Ci sono un po' tutti i collaboratori del cardinal Ravasi, Paolo Bonaiuti senatore, Piero Fassino. Tutte queste persone sarebbero state, e altre, ne dico alcune, sarebbero state spiate. Si tratta di 18.327 dossier univoci con dati riservati di Camera, Senato, Ministeri dell'Interno, Esteri, Tesoro, Giustizia, finiti in server schermati negli Stati Uniti per poi essere presumibilmente venduti al miglior offerente oppure, nella peggiore delle ipotesi, diventare strumento di ricatto. Questo è l'elemento generale, spiati più o meno tutti, tanto che quel satanasso di Iena sulla Stampa, pagina 3, scrive: Gentiloni è caduto in depressione, nessuno lo spiava. E sì, perché c'è anche questo curioso atteggiamento tutto molto italiano di andare col petto in fuori, ma mi spiavano, ma insomma non è il massimo della vita. Comunque, pagina 3 del Corriere della Sera, Fiorenza Sarzanini, violato il telefono di Renzi, falle nella sicurezza italiana, la rete che porta agli Stati Uniti. Tra l'altro, sapete chi spunta? Bisignani, sempre spunta Bisignani, perché il giudice indica 4 indirizzi mail dove Occhio Nero, il fratello maschio, sono un uomo e una donna, inviava i dati carpiti dalle macchine delle vittime e specifica che queste mail sono le stesse mail emerse nel 2011 nel corso del procedimento penale avviato a Napoli contro la P4, uno di questi collegato a operazioni di controllo da parte di Luigi Bisignani nei confronti dell'onorevole Alfonso Papa delle Fiamme Gialle. Bisignani dice due parole sul Corriere ridendo: ma chi lo conosce questo Occhio Nero? Insomma, tutti si concentrano su questi fratelli Occhio Nero. Lui ingegnere, lei maratoneta dilettante, runner dilettante, lui ingegnere nucleare con la passione dei software spia, da ieri mattina sono in carcere. E Carlo Bonini fa un lungo editoriale a pagina 3 di Repubblica. La domanda è: chi erano, per conto di chi lavoravano, perché questa rete di fratello e sorella intorno ai potenti d'Italia? Lui, aspirante maestro venerabile della loggia massonica, lei manager, a chi rispondevano? Perché pensare che potesse aver fatto tutto questo da soli, così, per il banale diletto, è un po' dubbio, eh? Tra l'altro, sul Giorno parla il dirigente della Postale che li ha scovati. Si chiama Ivano Gabrielli, vice questore del CNAIPC, è la sigla, l'acronimo, è lui che ha scoperto la mega rete. È tutto nato da una mail, ci siamo attivati perché il responsabile sicurezza di una delle infrastrutture che controlliamo, l'ENAV, si è insospettito per un messaggio di posta elettronica inviato da uno studio legale con il quale loro non collaboravano. È stata una giusta intuizione, l'email è stata sviscerata, si è scoperto che in allegato aveva un malware ed era transitata da un nodo Tor che rende anonima la fonte. Ci sono anche molti termini tecnici, ovviamente. Da qui il sospetto: i nostri tecnici hanno studiato il malware e decrittato il percorso che avrebbero dovuto fare le informazioni fino ad arrivare al centro di comando e controllo negli Stati Uniti. Poi, insomma, spiega sempre più nei dettagli, anche interessanti per chi è molto appassionato di tecnologie e di informatica. Sta di fatto che questo succede e, ecco, io ho notato a pagina 5 questa intervista, una persona di solito molto schiva, di lui proprio non ci sono praticamente mai dichiarazioni. Marco Carrai, molto amico dell'ex premier Renzi, ricordate, c'è stata tutta la polemica quando Marco Carrai doveva assumere il ruolo di consigliere di Renzi per la cyber security. Lui non parla mai, ma oggi parla. Intervistato da Ugo Magri sulla Stampa, dice: i pirati del web e del cloud potranno aggredirci anche con i droni. E dice: ecco, vede, purtroppo si ragiona come si tratta di proteggere vecchi PC di 20 anni fa, ma non esisteva l'interconnessione di oggi, Bluetooth, NFC, alta connettività, cloud, tutti questi sistemi di trasmissione di dati dove ci si può infiltrare facilmente. Questi apparati vivono nell'interconnessione. Lui dice: per carità, non sono mai diventato consigliere di Renzi, ero e rimango un privato cittadino, ma lancia tutto questo allarme a dire attenzione. Sembra quasi tradurla un po' questa intervista a dire: vedete che serviva uno come me? Però, insomma, non vorrei pensare male. Comunque Carrai parla alla Stampa: i pirati del web e del cloud potranno aggredirci anche con i droni. Con i droni, capito? Caro Mauro Meazza, guardati sopra, alza la testa, io lo sto facendo, c'è un soffitto per me, cioè, attenzione. Ma, buongiorno, sono un po', non so, ma le nostre email anche potrebbero essere state, non credo, non credo che interessino a nessuno. Pensa tutti però. Gli sfottò tra Milan e Inter, come finiranno spiattellati sui giornali. Chissà come si sono divertiti questi signori Occhio Nero, che, di cui peraltro c'è anche una vignetta oggi, sì? Di Domenico Rosa, se puoi farla, puoi mostrarla su Sole 24 Ore. Eccolo qua, Occhio Nero. Grazie tante cose, secondo me vale anche un po' come commento, sì. E anche direi da vignetta di meditazione. Ecco, oh, sì. Ma senti, oggi grande giornata per le pensioni. Oh. Ciò che tu sei giovane, beato te, quindi non hai di questi pensieri, ma invece coloro che magari hanno qualche annetto di più, come il sottoscritto, ci pensano e allora si possono informare, perché oggi diamo ben 80 paginette in un fascicolo, in un volumetto che è allegato al Sole 24 Ore, intitolato Le nuove pensioni. Molte cose cambiano, abbiamo parlato tanto dell'APE, ad esempio. Se ti ricordi l'APE? No. Non vorrei che magari qualche giorno di assenza dal microfono ti avesse obnubilato sul punto. Ecco, l'APE, l'anticipo pensionistico, come sai è uno, ma è anche trino, perché ci sono tre formule diverse. Allora spieghiamo il tutto, poi c'è la quattordicesima, poi ci sono i lavori usuranti, insomma tante novità del 2017, tutte raccolte oggi in questo volume che è in allegato al Sole 24 Ore. Sempre da meditazione, ti consiglierei oggi la lettura della inchiesta di Claudio Gatti sul buyback, che so che questi anglismi, anglismi ormai ci tormentano, ma la sostanza è che diciamo c'è una prevalenza a premiare le operazioni finanziarie rispetto a quelle industriali proprio negli Stati Uniti, e da lì poi il tutto si collega anche con le evoluzioni politiche, l'elezione del presidente di Donald Trump e altre cose ancora, anche la scelta dei suoi consiglieri. Il tutto sul Sole 24 Ore a firma di Claudio Gatti. Hai già citato il nostro titolo sul piano per Montepaschi: si prepara questo decreto, lo Stato che garantisce la nuova emissione, e di questo riferiamo adeguatamente, adeguatamente è un avverbio inedito per la nostra collezione, in pagina 3. Ma ti vorrei parlare di una norma che non c'è e che ci manca molto invece, come dicevano i copisti, desideratur, la norma sugli effetti fiscali per i bilanci, perché i bilanci cambiano, ma ci vuole una norma per non incasinare il tutto, scusate il termine un po' tecnico. Ne riferiamo tutto? in norme, scusami? Tutto? No, incasinare. Incasinare è un termine molto tecnico, e chi si occupa di fisco lo capisce molto bene, perché è abituale spesso in queste disposizioni. Spieghiamo il perché sulla prima pagina di norme tributi che tu leggerai come sempre. Aspetta, questo religiosamente. Ma che devo fare con te? 15 giorni di stop. Vabbè, domenica poi facciamo un ripassino. Domenica ci sei, domenica sera. Domenica ci sono, facciamo un ripassino di avverbi, vabbè. Perché mi sembra ti vedo poco preparato, okay, poco pronto. Vabbè. Allora sappi che poi da oggi, a proposito di fisco, sì, è possibile registrarsi per Telefisco, che ci sarà non domenica, perché domenica invece c'è un altro tipo di evento, ma ci sarà il 2 di febbraio. Allora, tutti coloro che sono interessati a questo convegno, appunto sulle novità fiscali, possono cominciare a registrarsi sul sito apposito, che è il sole24.com/Telefisco. Non so cosa vuole dire slash, però mi hanno detto di dirlo e io lo dico. In ultimo, ma non per questo meno importante, tralasciando molte altre cose interessanti di oggi, ti vorrei parlare della manutenzione delle scarpate. Perché? Perché la Cassazione ha detto che il gestore della strada deve preoccuparsi anche della scarpata. Se ci lascia sulle erbacce e poi qualcuno, come è capitato a un autotrasportatore, finisce per ribaltarsi perché non riesce a vedere dove finisce la strada, dove comincia la scarpata, ebbene, allora il gestore ne deve rispondere. Come mai ti parlo di queste vicende viabilistiche, secondo te? Perché te lo devo dire. Traffico! Alessandro Milan, il Melania Trump dell'informazione! E allora eccoci qui, cari ascoltatori. Oggi la Corte Costituzionale decide sul referendum Jobs Act. Il retroscena più interessante forse di Liana Milel su Repubblica, che sembra un po' anticipare quello che succederà e racconta di una consulta spaccata sull'articolo 18. Il sì al referendum è legato a un voto. Comunque ci sono tutte retroscena, come sono posizionati i 15 giudici della Corte Costituzionale. C'è da dire che attendiamo oggi prima di questi retroscena. Sui voucher però c'è un'interessante intervista sempre su Repubblica. Francesco Manacorda intervista il presidente dell'INPS Tito Boeri. Il titolo è questo: cambiare i voucher ma non cancellarli. E poi accusa i sindacati, CGIL ipocrita, li usa in grande quantità. Allora Boeri la prende dalla disoccupazione giovanile, che resta a livelli inaccettabili, dice: da quando c'è il Jobs Act l'occupazione è cresciuta più del reddito nazionale, gli studi che facciamo ci diranno che ruolo hanno avuto in questo gli incentivi fiscali rispetto al contratto a tutele crescenti. E poi va dritto sul punto sulla polemica dei voucher. Sapete che anche la CGIL è stata pizzicata a usare i voucher dopo che li ha criticati molto. La CGIL dice sono stati usati in casi isolati a Bologna. Ebbene, sentite Boeri, nel dibattito di questi giorni vedo molta ipocrisia. Intanto dice c'è stato un abuso dei voucher, sicuramente, per le prestazioni temporanee accessorie, ma non vanno cancellati. Dai nostri dati si tratta di un episodio della CGIL tutt'altro che isolato. Nell'ultimo anno la CGIL ha investito 750.000 euro in voucher. Non si tratta solo dunque di Bologna o solo di pensionati. Anche altri sindacati hanno massicciamente usato questi strumenti. La CISL ne ha utilizzati per un valore di 1,5 milioni di euro. Ecco allora che fa un po' di chiarezza coi numeri Boeri, che poi in questa lunga intervista parla della modifica e come modificare l'INPS. Allora, in tutto, l'altro grande tema sono le banche. Montepaschi, continuano i nomi mentre si discute, ma bisogna rendere noti i nomi dei debitori. Oggi il Corriere li piazza un po' più in là, pagina 28-29. Altri giornali non li piazzano neppure. La Verità e Libero continuano nell'operazione di pubblicare i nomi dei debitori di Montepaschi, quelli che almeno si sanno. Eccolo qua, i prestiti alle coop e agli altri amici che hanno affondato il Montepaschi, titolo di pagina 2 della Verità, e anche Franco Bechis su Libero. Ecco gli altri nomi degli insolventi Montepaschi, ci si concentra, sul Corriere della Sera ci si concentra molto per esempio sui costruttori romani Mezzaroma, che hanno un problema, scrive Mario Gerevini. Alla loro holding sono stati protestate 111 cambiali per milioni di euro da maggio fino a ieri. Ma chi rischia un bagno di sangue per averli copiosamente affidati? Banca Monte dei Paschi. E poi il comune di Colle Valdelsa, stabile a Roccaforte centrosinistra, si è aperto un buco nei bilanci per il fallimento di una costosa iniziativa immobiliare. A pagarne il prezzo è chi l'ha finanziata? Monte Paschi. Antonio Muto voleva costruire alberghi e parcheggi a Mantova coi soldi del Monte Paschi. Sono arrivati 27 milioni, 13 utilizzati e gli altri 14 non si sa più nulla. Insomma, dai costruttori romani Mezza Roma al comune di Colle Valdelsa, ecco i crediti a rischio dell'istituto in cui entra lo Stato. Ci sono i nomi, li potete trovare su qualche giornale, ripeto, oggi il Corriere, La Verità, Libero. La politica, Grillo torna da Farage, Bella mossa questa, Torna, Farage gli detta le condizioni, in pratica hanno fatto fuori questo eurodeputato Borrelli, che è stato un po' l'artefice, David Borrelli, di tutta questa operazione fallita, è stato messo da parte, lo stesso Nigel Farage ha preteso che venisse messo da parte. C'è un po' di malumore, oggi i giornali si concentrano alla notizia politica di questi giorni, il grande malumore nella pancia del movimento per questa operazione fallita. Vi segnalo di cronaca due cose. Roberto Giardina sul Giorno, i giudici bocciano i genitori islamici in Svizzera, le lezioni di nuoto non violano la libertà religiosa dei musulmani. È questo che a quanto ha sancito la Corte Europea per i diritti umani dopo il ricorso di padre e madre turche che si rifiutavano a Basilea di mandare in piscina le bambine coi bambini a 7 e 9 anni, pretendevano delle piscine e corsi separati. La Corte Europea per i diritti umani, giustamente siamo in Europa siamo, ha detto che questa cosa è folle. Non l'ha detto così, ha respinto il ricorso, negato il nuoto alle figlie, il nuoto separato. Le bimbe in piscina vanno con i maschietti perché da 1000 anni e più, no, non da 1000 anni, ma da un po' di anni, qui si fa così. Bene, va bene? Se no, si va là dove non si fa così. È chiaro? È semplice a volte, è chiaro. E se tornassero i Brangelina? Eccola la carta costa, l'articolo più inutile sui giornali, una pagina di Libero con Pete e la Jolie che annunciano: lavoreremo insieme per riunificare la famiglia. Ma chi se ne frega?